Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini col tuo cognome da mezza sega, con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega, e non mi piaci tu, mezza sega. All'onorevole Meloni, che adesso si vergogna del suo passato fascista, se prendendo circa 17.000 euro al mese come parlamentare, perché tra l'altro non se li ha tagliati come i nostri parlamentari che hanno restituito circa 17 milioni di euro alle piccole e medie imprese, perché non si è dimessa da parlamentare quando si è candidata a sindaco, e soprattutto se questa doppia poltrona le serve come paracadute nel caso andasse male? Meloni, ho un minuto. Intanto il tema del taglio dello stipendio, intanto vabbè, insomma non vado sui dati, il tema del taglio dello stipendio. Va bene, saluto il Meratese, buongiorno, mezza sega anche a te. Allora, saluto Paola da Desio, saluto Tonio da Pandino in provincia di Cremona. E Luciano in provincia di Teramo, eccolo lì. Saluto anche Adriana da Lanciano, sempre presente. E Marco da Dubai. Marco da Dubai ci dice che ancora si muore di caldo. Qui invece temporali. Disastro. Ah, vabbè. Paola Saluzzi, sei svegliata? Sei svegliata? Paoletta, ti stiamo chiamando, non rispondi? Il tuo solito cellulare che fa le bizze? Dove sei, Rossa? Dove sei, Rossa preferita da tutti gli amanti di Radio 24? Rispondi, rispondi. Grande Milan, saluti da Bali. Ci stanno ascoltando da Bali in questo momento. Bali! Arrivi di Doors anche a Bali. E Milan, brutto debosciato! Saluto Jenny da Napoli, buongiorno e buon inizio mese, grazie, grazie, buon inizio mese, per me l'inizio di giugno coincide anche col compleanno di mia moglie, ho pagato il salasso in onda, l'ho detto. Ed eccolo qui anche il nostro... il nostro Jesco da Krasnoyarsk ci segue sempre alle 6:32 minuti. Eccola qui che si è svegliata la rossa. Si è svegliata la rossa. Paolina, Paolina, Paolina, Paolina, Paolina, Paolina, Paolina. Eccola, buongiorno qua. Cari, buongiorno, buongiorno. Paola Saluzzi, Eccola, buongiorno, direttamente Nino. Da Sky, da dove abbiamo preso. Io ieri devo dire ho tradito il dibattito perché c'era Gomorra. Quindi, sai, ecco, quindi sei rimasto sempre. Sì, vabbè, sono rimasto in famiglia. Va bene. Com'era in Sabrina Humphrey Bogart quando le dava il bacio, no? Ma rimane esatto. Sempre in famiglia. Stai senza pensieri. Paolina, stai senza pensieri. Non lo dicono più, tra l'altro. Non lo dicono più in questa. Non l'hanno ancora detto in sei puntate. Stai senza pensieri. Non l'ho mai sentito. Li aspettiamo. Stai senza pensieri. Va bene. Non era Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te, Paola. Non era un cinese che viveva a Bari, quello di prima, quello di Bali. No, non è la cinese di Bali. No, perché il numero, io lo controllo, il numero è 0062, a meno che uno non si sia comprato una SIM indonesiana per mandarci un finto messaggio da Bali. No, che sarebbe una cosa molto originale, ma sarebbe una costruzione un po' esagerata, sì, anche da matto sarebbe, e quindi è da Bali. Insieme a Paola Saluzzi abbiamo qui Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che oggi, buongiorno direttore, buongiorno, la intervista buongiorno. Più strepitosa di politica del giorno a Luigi Di Maio. Attenzione, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, in un insieme di foto dichiara anche insieme alla sua fidanzata Silvia Virgulti: mi piace che sia bella e sexy, mi rende orgoglioso e il sesso è fondamentale tra noi, caro direttore. Cosa c'è? È la dichiarazione politica più interessante del giorno, Luigi Di Maio, no? No. Sì, dice anche altre cose, però sì, effettivamente... Sì, sì, dice anche altro, sì, effettivamente. Però sì, effettivamente... Ha colpito anche te. Guarda che siete su tutti i giornali, non solo su me, siete su tutti i giornali, mezza pagina, dichiarazione di Di Maio, e appunto tu dice altro. Indovina un po' cos'è andato su tutti i giornali. La fidanzata, la storia della fidanzata e del sesso. Però dice anche altro, va bene, tra poco ce lo dirai ovviamente. Allora qui siamo con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Longoni in redazione, perché abbiamo mandato via Lorenzo Nespoli, ieri mi ha fatto arrabbiare, l'abbiamo cacciato a calci. Via. Ma per favore. Sì, sì, sì, via. Siamo lì che ti crediamo. Ne ha combinate un paio, via. Via, licenziato. Entrato con la maglia dell'Inter. Via. Cosa fa? No, niente, scherzo. Ovviamente domani tornerà con noi. Allora, scampoli ultimi di campagna elettorale. Cara Paola, ma tu cos'hai visto il dibattito? Cos'è per dovere ovviamente, istituzionale? Ovviamente. No, per studio, proprio per lavoro, insomma, voglio dire, oltre che per assoluta curiosità. E allora che vuol dire? Io ho visto Gomorra per lavoro, che vuol dire? Che vorresti dire con questa? Ci vorrebbe la voce di De Luca. Perché tu sei un ragazzo filmico. Esatto. Sei un ragazzo filmico che guarda con attenzione ciò che fa il mondo del film. Vabbè, mi è uscita malissimo. Insomma, chi è andato meglio? Dai, dimmi, cioè, non lo so. Allora, non, per carità, non ti fiamo. È stato veramente lo scontro Virginia resto del mondo, no? La partita era questa, come Maradona resto del mondo. E c'è stata poi la possibilità anche di votare, insomma di dare sì la propria indicazione da parte di chi ci stava seguendo. Attenzione. Sondaggioni. Quindi, sicuramente sondaggione, la Raggi è uscita fuori più forte. L'hanno messa un po' alle strette gli altri quattro. Però è stato, guarda, con la solita formula, dico solita con un compiacimento, perché è veramente un grande collega di Gianluca Semprini, è venuto fuori un dibattito accesissimo e sui temi sui quali erano, virgolette, interrogati, e poi nei temi l'un contro l'altro armati, perché chiaramente indovina qual è stata la partita e il match, Raggi Meloni, ovviamente. Non poteva che essere così, quindi aspettiamo che si... E qualcuno ha tirato fuori la storia Meloni incinta? No, almeno questi ce l'hanno risparmiata. Non vi dirò nulla, dovete andare a rivederle. Vabbè, dai, spoilera un attimo. No, allora, c'è da dire questo, che questa formula, tra l'altro, lo sottolineo, è stata l'unica adesso fatto così sembra uno mega mega spot, ma lo voglio dire, è stato l'unico, l'unico momento di confronto al quale la Raggi sia sottoposta, ecco, alla quale abbia voluto partecipare. Poi è chiaro che il discorso non deve diventare la Raggi serata, il discorso è la serata in cui si sono confrontati i candidati, il sindaco di Roma, se no si rischia di... No, è chiaro, di tifare, di fare lo spot carità. Nella campagna elettorale, per c'erano carità, tutti, per c'erano, carità, tutti, c'erano tutti. Adesso la cosa che conta sono queste ultime ore, perché poi ora conteranno i comizi finali, con chi partecipa, chi non partecipa. Ma io mi chiedo questo, palco, ma davvero contano questi comizi? Non lo so, tu Luca l'hai visto, direttore? L'hai vista ieri Sky oppure no? Puoi dire che hai fatto altro. Non l'ho visto, anche se... Come me lo raccontate, insomma, è come una puntata del Trono di Spade, quindi sì, sembrava una cosa così, sembrava no, tutti contro la Raggi, no? Come di fatto è. Come di fatto è, quella che è data, insomma, più accreditata e quindi con gli altri contro. Comunque meravigliosi tra Gomorra e Trono di Spade, grazie. Gomorra, Trono di Spade e il confronto con famiglia. Esatto. Ma tu, direttore, perché c'è da chiedere questo, oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera dice rischiano di essere elezioni con maggior numero di persone che non andranno a votare, perché c'è anche quest'altra accusa un po' velata, e cioè che in fondo anche questa ennesima campagna elettorale sembrano tutti abbastanza inadeguati, nel senso che cosa dicono? Fuffa o non fuffa? Non so, direttore, sono troppo duro? No, secondo me non è tanto quello, forse almeno per quanto riguarda, secondo me per quanto riguarda Milano e Roma rischiano di essere delle elezioni dove tutti sanno già chi andrà al ballottaggio e quindi la prima volta neanche ci vanno, nel senso che ricordiamo che il 5 giugno arriva anche dopo un ponte, un pontone di... Sì, cioè il rischio che io vedo è quello lì, che uno pensi che i giochi siano fatti, che quindi... Dice, mi tengo per il ballottaggio, mi tengo per il ballottaggio. Dove invece i giochi sono tutti da... Tutti da vicino, ma è chiaro. Per esempio Luigi Di Maio a Vanity Fair, che dice di questa cosa? No, vabbè, adesso al di là di tutto, ma cosa, cosa dice? È prevedibile su questo aspetto, però devo dire che invece a Roma io credo che la sfida vera sia tra lei e Giacchetti. Tra Raggi e Giacchetti. Sentiamolo qui, allora, Giacchetti, ieri dal confronto a Sky. Giacchetti. Ho fatto una campagna elettorale di 4 mesi e se pensassi che adesso un semplice appello finale potesse far cambiare opinione elettore, penso che farei un insulto alla sua intelligenza. Però vorrei dirvi, e in questo penso che potrebbero essere d'accordo tutti coloro che sono qui, di giudicarci sostanzialmente su 3 cose. Sulla nostra storia personale, sulle nostre idee e sulla nostra squadra. Eccola, l'appello finale. Insomma, come dire, comprensibili queste parole, no? Sì, è chiaro, c'è un appello finale, però poi devi essere... Ma questo credo che valga politicamente per tutti. Perché non è l'acquisto di un prodotto, non stiamo comprando un vaso di vetro che contiene pomodori ma è chiaro, biologici. Bisogna leggere non per il sugo, cioè siamo di fronte a chi governerà questa città, quindi insomma appello corretto. La decisione le sicuramente per tutti quanti. È delicata, vabbè, ma dai, lasciamo le questioni elettorali, anche perché siamo in par condicio, non possiamo dire nulla. Quante volte hai detto Raggi? Hai citato Meloni, lo faccio io, Meloni. Marchini, Fassina, Lucadini, tu vuoi dire qualcosa? Sala, Parisi. Io detesto la par condicio. Guarda, non dirlo a me, che vedo un paio, dovremmo appendere un paio di manette qua dallo studio. Secondo me anche Paola Saluzzi odia la par condicio. Tutti i giornalisti odiano la par condicio. Avere a che fare tutti i giorni esiste e quindi come tale bisogna trattarla. Bisogna rispettarla. Insomma, dobbiamo essere bravi. No, però ragazzi, diciamo che oggi ci sono stati, vabbè Alessandro, questo poi tu, io ti seguo tutte le mattine, quindi ci sono state tante cose da dire in questo tristissimo periodo. No, infatti io volevo tornare insomma su questa vicenda terribile del fatto di cronaca di Roma, e cioè di, dell'uccisione di Sara Di Pietrantonio da parte del suo ex fidanzato, che, attenzione, lo so, adesso non vorrei suscitare gli istinti più bassi, l'ex fidanzato che in carcere dice, come scrivono i giornali, ora ho paura, lui ha paura. Certo, beh, in carcere non credo che lo accolgano con le rose e con i fiori. Ma allora, intanto c'è un grande dibattito, la questione del, su tutti i giornali oggi viene intervistata questa persona di 18 anni che è passato con lo scooter, dice sono passato a 70 km all'ora con lo scooter, ho visto semplicemente due persone, cioè loro due, Sara e il suo ex fidanzato, che parlavano in maniera normale, cioè lei un pochino si agitava ma si confrontavano, che dovevo fare, erano le 4 di notte, sono passato, niente lasciava pensare quello che sarebbe potuto accadere di lì a poco. Io adesso non vorrei, cara Paola, che si arrivasse a criminalizzare una persona che non sappiamo no. che cosa ha visto quando... Allora, ma questo non lo dico io, è evidente che nell'appello che è stato fatto a caldo nella conferenza stampa da chi ha parlato con coraggio e con lucidità sia emerso che la prossima volta che tu vedi discutere animatamente alle 4 di notte o giri la moto e torni indietro, cosa che questo ragazzo tra l'altro ha fatto. Ha fatto pochi minuti dopo, cioè dice tornando indietro. Esatto, se vedi più animata la discussione, se intravedi un tentativo da parte di una delle due persone, non tanto da parte di una di chiedere aiuto, ma da parte dell'altra, di essere un po' più violenta del solito, chiamare la polizia. No, ma questo sì, ma io credo che questo ragazzo, almeno dice in un'intervista Repubblica, nella quale tra l'altro dice non ci dormo più la notte, dice certo, sono passato e ho visto lui che era normalmente seduto appoggiato sul cofano e lei che parlava un pochino agitando le mani e gridandogli qualcosa, cioè in senso un po' animatamente, però dice non dava minimamente l'impressione di una situazione nella quale poi poteva essere una discussione. Alessandro, mi posso permettere, analizzando questo lato che è importantissimo perché è ciò che socialmente da un punto di vista di solidarietà siamo pronti a fare, l'altro punto che deve segnare il punto di svolta soltanto nelle punizioni ma nel metterci di fronte al fatto che nella testa di qualcuno è possibile, è che da questo, non per togliere valore agli altri atti atroci che sono stati commessi contro le donne, ma questo è un punto di non ritorno. Tu dici adesso bisogna bruciata viva e lui si è allontanato, è partito da casa con il liquido infiammabile, che sia alcol, che sia quello che volete, è tornato al lavoro per costruirsi il si parla addirittura di una settimana di premeditazione su questo. Va bene, su questo allora non c'è questo deve far dire a questo paese che tra moglie e marito, quando sei amico, quando sei amica, quando sei la confidente del cuore, tutti abbiamo avuto 20 anni, 30 anni, 45 anni, tutti gli anni che vogliamo avere, va bene, lo denunci. Questa è un criminale, è un'altra questione. In una maniera medievale, una giovane vita, lo denunci. Questa è un'altra questione, sicuramente la quale voglio riprendere dopo il traffico. Voglio coinvolgere anche te, Luca, su un altro tema, che è quello che ha detto l'avvocato Buongiorno, che oggi avremo ospite alle 8:20. E cioè l'avvocato Buongiorno ha detto bisognerebbe aumentare le pene e dare sempre l'ergastolo come deterrenza. Io devo dire non sono d'accordo su questo, ma tra poco ne parliamo. Scusami amore, non è che non ti volevo sposare, c'era il traffico. Renzi continua a dire che non c'è nessuna emergenza migranti, ma non è il caso di fargli un controllo antidoping? Carolino, io il morbillo l'ho passato e non sono mica morto. Milan, ma come fai a non sapere cos'è l'output gap? Questo sai cosa significa? Che non ascolti Focus Economia, che ricordo è condotto dal tuo direttore Sebastiano Barisoni. Milan, buongiorno. Guarda che non è cinismo questo, eh. È pura verità, l'Italia funziona così, Contratto part time, 3 ore al giorno per 6 giorni a settimana, in realtà lavoro 12-14 ore al giorno, per uno che si sta arricchendo. Milan, raccontala bene la storia degli 80 euro, che gli devono dare indietro anche quelli che non sono arrivati a 8.000 euro di reddito. bello, bello, gran bella cosa. L'abbiamo detto, i cosiddetti incapienti, più di 300.000. Allora, Luca Dini, intanto dai giornali viene fuori che la madre della povera Sara dice era ossessionato di gelosia, la chiamava ogni 10 minuti. Questa è la prima cosa. E poi che ne pensi? L'avvocato Buongiorno ha fatto questa proposta, sia da deterrente. Io devo dire invece sono d'accordo. Ovviamente. Sei d'accordo? Mm. Sì. Però sì, perché secondo me non vedo nessuna, onestamente non vedo nessuna possibilità di redenzione per una persona così. Mi dispiace dirlo, però lo so che non è popolare da dire, ma insomma io non capisco, cioè, questa è una persona che ha voluto cancellare un'altra persona. E quindi dice deve rimanere a vita in carcere. Solo che quello che ha aggiunto l'avvocato Buongiorno, che si batte per questi temi da tempo, è quello che mi ha fatto riflettere, dire bisognerebbe avere questa aggravante all'ergastolo proprio perché per secoli il diritto è stato sbilanciato a livello maschile. Ora ci vuole uno sbilanciamento spudoratamente a livello femminile, che non mi sembra, cioè, la risposta. Ma non c'è bisogno di uno sbilanciamento, è la realtà che continua ad essere sbilanciata, sono gli uomini che ammazzano le donne. In modo, mi intrometto, direttore, certamente preponderante. A Parolisi è stata tolta l'aggravante della crudeltà, sì, è vero, dell'accanimento sul cadavere di tua moglie, madre di tua figlia, su cui tu vai a fare una svastica su un cadavere. Non è crudeltà, oltre ad averla ammazzata come l'hai ammazzata. Scusatemi, signori, ma la crudeltà che cos'è? Dobbiamo riaprire Auschwitz? Dobbiamo riaprire i forni crematori? Dobbiamo rimettere in giro Mengele? Cos'è la crudeltà? Cos'è prendere una ragazza e gettarla in faccia e sul corpo e l'alcol e poi accendersi una sigaretta e dire ora è stato un attimo? Sì. Per poi dire agli inquirenti sono andato con una prostituta, per questo mi sono allontanato dal mio posto di lavoro. Non è possibile che il nostro paese... Lo so che questo non ferma il criminale, che è il criminale, il vigliacco schifoso che è in certi uomini, perché perché sono questi individui, e sto parlando a quelli dei vigliacchi, siete alti come un mignolo, se non sapete sopportare che una donna vi dica non voglio più stare con te, siete dei mignoli vigliacchi che andate in giro, questo siete. Ma se non mettiamo la certezza che tu mi hai tolto la vita, io ti tolgo la vita libera. Questo è il primo punto. Il secondo punto non stiamo ovviamente giudicando una madre che non so che cosa debba aver provato quella donna di fronte al corpo della propria figlia. Però l'idea di denunciare, l'inizio di questi mariti, non mariti, compagni, padroni, maledetti, denunciateli. Avrà problemi sul lavoro, glielo tolgano il lavoro, glielo tolgano, denunciate. Sì, ma su questo sì, io sul tema della denuncia è chiaro che è quello che bisogna fare, tante volte poi si dice purtroppo quando è tardi, viene detto troppo tardi. Sulla questione, ripeto, della deterrenza, sai Luca, è come tante volte si dice della cosiddetta pena di morte, che non è un deterrente per il crimine, cioè non è che se uno vede e sa che c'è l'ergastolo come rischio, allora viene frenato nella sua... Sì, ma ergastolo. Però esiste anche una cosa che si chiama punizione, secondo me. Non è la pena di morte, perché la pena di morte è l'ergastolo. Tanti dicono meglio la pena di morte che l'ergastolo, col cavolo, non è la stessa cosa. Per favore. E comunque anche il discorso della madre, che secondo me cambierà presto idea, però è anche inadeguato come discorso, cioè la punizione non si dà per dare un risarcimento ai genitori o ai familiari. No. Cioè, non sono loro a decidere se una persona deve essere perdonata o no. Si dà una punizione perché se è sbagliato si dà. E quindi secondo me, cioè, questo è un crimine talmente orrendo che se una persona può finire anche un giorno in galera per aver rubato una scatola di pomodori, che cosa si deve fare con questo signore qua? Scusate, cioè, per me c'è una cosa che si chiama anche proporzione. E quindi la proporzione è mostruosa, quindi No, no, se quindi non ti scandalizza. No, per niente. Non è che voglio parlare solo di questioni giudiziarie, ma c'è anche sui giornali la condanna in appello a un amico di Paola Saluzzi, il quale pensa sempre a lui. Tante volte hai già capito. Alessandro, c'è anche questo, Schettino, 16 anni confermati. Schettino. È una cosa che è caduta decisamente in secondo piano rispetto a quello che abbiamo appena commentato. È stato confermato. Sì, 16 anni. È stato confermato. 16 anni in appello per... 16 anni. Esatto. Invece vi voglio sottoporre in conclusione quest'altro audio, che è quello di Boeri, presidente dell'INPS. Oggi, attenzione, perché sui giornali c'è un grande dibattito rilanciato dal presidente della CEI, Monsignor Galantino, che dice bisogna accoglierli tutti i migranti, tutti, così dice la Chiesa. Sentite Boeri dell'INPS, parla della questione pensioni e immigrati. Però è anche vero che molti migrati vengono da noi, versano i contributi e poi se ne vanno senza percepire le pensioni. Abbiamo stimato che quasi un punto di PIL sia stato acquisito di fatto dalle casse dello Stato italiano. È come un dono che ci è stato fatto dalla presenza degli immigrati all'interno del nostro paese. Il dono dei migranti, capito, direttore? Meno male che qualcuno lo dice, questo qualcuno è Boeri. Il dono dei migranti. So che sono queste cose sulle quali anche gli ascoltatori dicono ma... Salvini e la Meloni non lo dicono mai, chiaramente, perché non porta voti, però è la verità. Tra l'altro tu lo sai che, vabbè, sulla questione di Salvini adesso magari dico una cosa che c'è su Repubblica, anche l'ascoltatore che prima in segreteria ha detto ma insomma i migranti, ma non c'è l'invasione, ma non è questione, io qualche giorno fa abbiamo fatto una trasmissione con Nando Pagnoncelli proprio sulla percezione degli italiani sui numeri e i numeri reali, e Pagnoncelli ha detto chiedete agli italiani, fate un sondaggio, l'abbiamo fatto, e vi diranno che la disoccupazione, che in Italia è attorno all'11-11-9%, è al 40%, cioè la percezione degli italiani. Ecco, la percezione è anche sui numeri. No, è vero, non ci sono numeri maggiori rispetto agli ultimi anni di numero di migranti arrivati. Cioè non è che è un dato di fatto, è matematica. Luca, non lo so, è matematica, non è che poi se le immagini sono drammatiche, i bambini che muoiono, su questo si può discutere, ma i numeri, i freddi numeri, sono quelli. Ma perché se ci dimentichiamo che abbiamo già fatto questi discorsi un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, appunto. E la politica fa sempre gli stessi discorsi, perché la politica non ama la matematica. Esatto, tra l'altro giallo dicevo, c'è Salvini e Donald Trump, vi ricordate la foto Donald Trump e Salvini? Ebbene Donald Trump in un'intervista che verrà pubblicata oggi, scrive Repubblica, ha detto non ho mai conosciuto Salvini, ma come c'è la foto? Ora si tratta di... Donald Trump dice molte cose. No, si tratta di capire se Donald Trump si è ammattito, se Salvini si è imbucato e non si è presentato come Matteo Salvini. Non ho mai conosciuto. Ti lascio Donald Trump che sta facendo trapelare che sua figlia Ivanka potrebbe diventare la sua vice? Stiamo andando verso il dirupo, siamo appesi per un pelo, mi sembra una bella Ivanka, la vice di Trump. E non stiamo parlando del sindaco di non so quale indicare quale paesino del lontano Oklahoma, stiamo parlando del presidenza possibile alla Casa poi Bianca. I miracoli sono sempre possibili degli Stati Uniti. Vabbè. E quindi, come dire, sui numeri si continua a dire che non è l'invasione, ma quando lo dici sembra che tu stia dicendo una bestemmia. L'importante, l'unica cosa che conti è che i nostri uomini della Marina Militare e di qualsiasi altra forza non lasciano morire le persone in mare. Questo sì. Far parte di un paese, che orgoglio far parte di un paese che salva le persone in mare. Mi devo fermare qui però, vi ricordo Vanity Fair in edicola con Liam, dillo tu il cognome Ducadini, Liam, ecco, porca puttana, Liam Hemsworth, il bello su Vanity Fair, e poi Luigi Di Maio che fa molto sesso, va bene, vi saluto, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Giovanissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia.